English Bit di Giulia Crivelli. Strike. How Trump came to make snap decision to strike Syria. Come Trump è arrivato alla decisione improvvisa di colpire la Siria. La CNN ha scelto questo titolo per uno dei primi servizi sul bombardamento americano avvenuto nella notte, in Italia, tra giovedì e venerdì. La prima parola che ci interessa è to strike, verbo irregolare, to strike, struck, struck, transitivo e intransitivo, che può avere molti significati, uno è quello militare. Ma più in generale si può tradurre con colpire. The ship struck a rock, la nave colpì una roccia. The child ran on the road and was struck by a car. Il bambino corse in mezzo alla strada e fu colpito, investito, da una macchina. She struck him in the face. Lo colpì in faccia con uno schiaffo, un pugno. Poi ci sono gli usi figurati. The area was struck by an outbreak of cholera. L'area fu colpita da un'epidemia di colera. I was struck by the resemblance to my grandmother. Fui colpito, impressionato, dalla somiglianza con mia nonna. It suddenly struck me how we could improve the situation. Tutto a un tratto mi resi conto di come avremmo potuto migliorare la situazione. Poi ci sono gli usi di strike come sostantivo. Uno dei principali è sciopero. Air traffic controllers are threatening to announce a strike. I controllori del traffico aereo minacciano di annunciare uno sciopero. Nel baseball lo strike è, controintuitivamente, un tentativo fallito di colpire la palla. Nel bowling, invece, è quando si riesce a buttare giù tutti i birilli. Tornando alla decisione del presidente americano, altri giornali hanno usato il sostantivo anziché il verbo. Five big risks after Trump's Syria strike. Cinque grandi rischi dopo l'attacco di Trump alla Siria. E nel titolo citato all'inizio, quello della CNN, notiamo anche l'aggettivo snap, che viene usato soprattutto con la parola decision, per indicare una scelta netta fatta in modo veloce. Spesso si dice anche snap election, un'elezione convocata all'improvviso, magari anche in modo inatteso. Un'espressione che conosciamo quasi tutti e che non è mai stata tradotta in italiano è snapshot, che in gergo fotografico significa istantanea, scatto. Espressione nata prima dell'era della fotografia digitale, indicava per esempio le foto delle vacanze. Oggi viene usata spesso al posto di screenshot o addirittura di frame.